Sono emozionatissima. È arrivato il momento. Invito il presidente Silvio Berlusconi qui. Berlusconi cita il Fini di ieri e ragiona: ci vogliono più poteri per il premier. Poi risponde a Franceschini che gli chiedeva di non candidarsi alle elezioni europee. Non ho esitazioni a impegnarmi direttamente, come credo un leader debba avere il coraggio di fare. Una candidatura di bandiera, una bandiera dietro la quale ogni vero leader chiama a raccolta il suo popolo. Sarebbe bello che anche il leader dell'opposizione, se egli stesse un leader, facesse altrettanto. Sono emozionatissima. Egli è il mio leader, non ho bisogno di pensare, pensa lui per me. Egli è il mio leader, non ho bisogno di parlare, parla lui per me. Per me, egli è il mio leader, non ho bisogno di ricordare, ricorda lui per me. Egli è il mio leader, non ho bisogno di sognare, sogna lui per me. Egli è il mio leader, non ho bisogno di giocare, gioca lui per me. Egli è il mio leader, non ho bisogno di credere, crede lui per me. Egli è il mio leader, non ho bisogno di sperare, spera lui per me. Egli è il mio leader, non ho bisogno di soffrire, soffre lui per me. Egli è il mio leader, non ho bisogno di essere libero, è libero lui per me. Sono emozionatissima. Sono felice, sono contento, perché un leader io ce l'ho. E mi dispiace per chi non ce l'ha, trallalleru, trallalleru, trallalla. E mi dispiace per chi non ce l'ha, trallalleru, trallalleru, trallalla. Ho un leader che riflette, giudica, valuta, pondera, mangia, beve e prende il caffè. Ride, ride, ride, si diverte, fa tutto quello che vuole fare, in più fa tutto questo per me. Sono emozionatissima. Sono felice, sono contento, perché un leader io ce l'ho. E mi dispiace per chi non ce l'ha, trallallero, trallallero, trallalla. E mi dispiace per chi non ce l'ha, trallallero.